tuo giovane drogato. Ma via, cos'è? E me sono andato al mare. Cuomane. Cuomane sei tu, sì. Hai capito, me lo metto. Attenzione, binario, qua, binario 10, sentite l'isola sarda, K. Mettene la tag. Natale, hai sentito? Cosa? La Sicilia sta chiamando, avanti Sicilia. Ascolti il nord Sardegna in quella di Sassari, avanti, buongiorno. Purtroppo io ti ascolto un po' in mezzo al Bailame, comunque da questa parte Lucca, nella città di Sassari, in compagnia di Natalino Alfa 1 che ti manda avanti, avanti Natalino, l'hai copiato. Basso, in mezzo al QRM, c'ho troppo QRM qua. Non so, com'è il tuo nominativo? Fatima, giusto? Adesso l'ho sentito, ciao Vito! Qua Natalino da Sassari, K. Fatima, ascolti Luca Pedivella da Sassari, avanti. Positivo, tu ascolti Luca Pedivella, avanti. Oh, mi sento. E va e viene lui, la giornata non è tanto per la quale, no? Lo so, adesso un cuocuoma è di là. Cappa, adesso sei arrivato, segnale 9 da me, io mi trovo in Sardegna, in quella di Sassari, avanti. Va bene, Natale, io usarlo, dai, che mi esce un po' al mare, sperando che si sta bene. A stasera, ciao. Ciao Lu. Trapani, qui è il nord Sardegna che ti ascolta. Non so se stai ascoltando tu, La città di Sassari, nord Sardegna. Vito, ti saluto perché sta arrivando bassissimo, incomprensibile. Io purtroppo non ti ho ascoltato. C'è troppo bailame, capito? 73, alle prossime, Vito. Lorenzo. Io sono Giovannino. Giovannino Gigino. Allora, c'è proprio di casino, brutta mano. Cappa, è importante che passi io. Già passi, con la speranza che senti tu a me. No, non c'è problema, ti sento benissimo. Cappa di Roggio, allora già va bene, se mi ascolti già va bene. Magari chi sa Drudione. Ah, però vai, la pigiamina è in alto, Gigi. Ah, però vai, la pigiamina è in alto. Vediamo un po', abbiamo dato una marcia, vediamo se mi ascolti meglio. È una buglia che ti ascolto, e tu bene mi ascolti. Ci prevedo come... Vedi alla grande, non c'è problema. Cappa, mi agignati. L'importante è che ci sentiamo a tuo posto, non c'è problema, ti dai giù dito la mano, me la fotti più nulla. Cappa, cappa. E becca, sta a posto. Ehi, ero fuori il giardino, mi stavo facendo un po' di cosette. Adesso mi sono seduto un attimo qua, e buco. Cappa, arrivi dove ero coso? Cosa? Tu arbecco. Sì. E domenica c'ho gente, lo inauguriamo. La mossa! A Sanvegna ascolta a tutti, buonasera, cambio. Uno Papa Sierra 854, molto bene. Qua Claudio Sparviero in compagnia di Antonio Bombolo, che adesso ti mando avanti. Buongiorno e ben ascoltato, avanti a tuo Palermo. Papa, salutare l'amico di Palermo, coppia Antonio da Sassari. Campa, vai, c'è una sovramodulazione, c'era uno da Sud Italia, lo stesso. Campa, dai, io ti sento un po' oscillante, ti sento. Campa, dai, chi è che chiama l'amico di Catania, avanti. Campa, buona giornata anche a te, ti passo, ti mando avanti l'amico Claudio, avanti. Buongiorno Catania, ben ascoltato. Claudio Sparviero della città di Sassari, avanti. Cappa, dai. Ti arrivo bene lì, in quelle parti, dai, a Catania? Ma hai detto che ti ha rilanciato. L'hanno sopramodulato, l'hanno sopramodulato, per quello che non ho sentito. Cappa, dai. E tu sei un po' bassino di radio, sì, Gesù Cristo mio. Sei un pochettino bassino di radio, sì, però già ti ascolto lo stesso, avanti. Cappa che ti copio. Non so, stai modulando con un microfono normale. Però la radio è un po' bassa, però già ti copio lo stesso. Io come arrivo lì in Sicilia, bene? QSL entrambi, molto bene, vi ascolto magnificamente bene, segnale di 9 per entrambi, sia a Catania che a Palermo, ok? Però io vi devo lasciare perché ho altre cose da fare, sono entrato per salutare qua il carissimo Antonio, saluto anche voi sia a Catania che a Palermo, vi lascio in compagnia di Antonio, io mi ritiro, ok? Ciao, buona giornata a tutti, avanti Antonio. Cappa, ciao Cla, ci sentiamo. Cristo mio, Claudio Sparviero, io che arrivi dal massimo. Sì, ti arrivano 9 più 20, già stai andando bene, dai, vai tranquillo. A cappa, dai, qua è proprio arrivato al massimo di potenza. Salutami a Sara, Anto, che l'ho sentita sotto. Ciao Sara, buongiorno. Sara! Dai, divertiti Anto, che io ho altro da fare, altro che stare in radio. Ciao. Vai, Cla, non c'è problema. Ciao a tutti. Avanti Palermo, avanti. Dai quant'ero di segnale? Cappa 9:40 a Palermo, minchia. Cappa ala 87 e Ringo Lem come antenna. Cappa, cos'hai letto che non ti ho copiato? Cappa, pure tu non arrivi mai. Sardegna, eh. Sui 920 Radio 5. Cappa, qui la cosa è tutta rogere. Non so come arrivo lì in Sicilia, ma penso una cannonata di modulazione. Sì, addirittura. KK, qui la città di Sassari, se mi senti. KK, l'amico. Qua anche qua in Sardegna arrivi una schioppettata, eh. Avanti Ragusa, avanti. Kappa che ti ascolto, qui è Antonio da Sassari, buonasera Ragusa. Sì, a Sassari sono, avanti. Kappa Kappa, anche tu arrivi bene, eh. Da che parte stai modulando? Kappa, qui la cosa è tutta Roger, tutta Roger. Kappa, ok, ce la risentiamo l'amico. Avanti, avanti l'altro amico, avanti. Guarda che sei qui in banda laterale, avanti. Ah, bravo, cazzo. Ok, positivo, non ho capito però dove stai modulando, ripeti, cazzo. Purtroppo ragazzi non si sente. Alla prossima, è stato un piacere, cambio. Attenzione, attenzione, copiate Antonio, Antonio da Sassari, Kappa. Grazie, positivo, grazie a te, buona giornata. Avanti Antonio da Sassari, Kappa, io ti ascolto forte e chiaro qua, la città sarda. Ok Antonio, buongiorno 73, intervento un comando a via che entra alle stelle, ancora per te Antonio, grazie. Kappa Kappa, dai. Vorrei vedere se la situazione ha migliorato, Kappa. Sei modulato, Antonio? La ringo M. Ok, io invece sto modulando con una sigma Venom 5 ottavi, la radio una sorte di X accompagnata da un'alfa lima di circa 200 watt di picco in altezza modulata, per te Antonio se mi ascolti. Kappa Kappa, qua è 9.30, il segnale è arrivato in radio 5, non so come dalle tue parti è il segnale, ma qua ultimo passaggio 9.30. La tua modulazione sì, arriva il segnale di 8, una radio di 5 è avanti per te. Kappa Kappa, dai. Oh, qua la cosa è tutta Roger, tutta Roger. Che coordinate sono le tue? Dov'è? In Sicilia? Sono a Sicilia, sono a Sicilia, io a Sassari, io sono a Sassari. Non è semplice fare i collegamenti tra la Pantelleria e la Trasmessa. Kappa Kappa, qua la cosa è tutta Roger, qua in Sardegna. Kappa, io ti sento benissimo, avanti. Kappa, anche tu sei molto positivo qua in Sardegna, eh. Qua stiamo andando alla grande, soddisfacente. Che tempo c'è lì in Sardegna, Antonio? Qua è ventoso da sciroppo, cambio. Kappa, è un po'... qui è velato oggi un po'. Però c'è caldo, eh. stato un forse dentro la scirocca, Antonio, per te ancora. Campo di campo. Ok Antonio, io ti cordializzo, dai, 73, è stato un piacere, spero di poterti riascoltare in quest'estate con le propagazioni. Faccio QRT dalla frequenza per caricamento batteria, Antonio, rilancio a te. KK, dai, mi ha fatto piacere questo collegamento. Ok, ce la risentiamo, chi è che vuole entrare, avanti? Antonio, c'è coppio a terra, cambio. Avanti Marino. Antonio, mi hai sentito, buongiorno, ben alzato, saluto anche Amico. Se mi stai ascoltando, 9.5, una radio 5 qui a Sassa, avanti e tu. Capo, l'amico mi sa che ha lasciato, l'amico ha lasciato. Avanti, avanti, sud, nord, in tutte le direzioni, avanti, Antonio Vassanza di che fa chiamata, Capo. Avanti Calabria, avanti. Capo, l'amico della Calabria, vediamo se ti sente Marino, avanti Marino. Io sono copiato, amico della Calabria, lo sentiamo di 5-6 a radio 4, Avanti l'amico della Calabria, se li sta ascoltando, cambio. Attenzione amico della Calabria, se ascolti Sassa, di cambio. E basta, preparazione, tu, sale e scende, avanti a tu. Kappa, lo so, dai. Kappa, attenzione Calabria, Calabria, copi da Sardegna che fa chiamata, avanti. Scesa di nuovo, tu. E tu la mattina che sale e scende, sale e scende. Preciso dove c'è cosa, vai. Puglia, tutto a posto, altro, sì. Tutto a posto, vai, passo con il Kappa, passo. Allora, sono qua due minuti fino a che mi chiama a fare la carica. Ehi, passo con il Kappa, che c'è il bundelli, c'è ancora. Ehi, Mari, ci sei? Adesso ci sono. Kappa. Eccomi qua. Andiamo. Poco fa sono arrivato 9.40 e radio 5 poco fa. Io sono stamattina, avevo fatto una quindicina di così collegamenti, ma roba veloce, insomma che la preparazione a momenti sale, scende, e va bene, dai. Ha passato la mezz'oretta, già va bene. Due cazzate siamo a posto, dai. Avanti col buongiorno Becco da Sassari, cambio. Sto ascoltando, ti ascolta, avanti, cambio. Che qui ho aperto il marino sempre da Sassari, sempre di Antonio. Un Santiago di 8, un Santiago di 8, una delle 5 perfette, avanti. Esatto, sempre da Sassari. Sono in compagnia sempre di Antonio, Adesso ti mando avanti. Avanti Antonio per l'amico di Padreria. Kappa, salutami l'amico da Antonio, Kappa, come mi senti lì? Kappa, qui la cosa è tutta Roger in Sardegna, tutta Roger. 6-8-9-8-9 e radio 5, avanti. Kappa, Antonio il bombo a Sassari. Sì, ti super saluto, vai con la carica e ci sentiamo, Comunque qui l'operatore Marino, Marino sempre da Sassari. Ok, buona carica del prossimo, avanti a tu. Ok, avanti a tu. Kappa, salutone l'amico, vai, ce la risentiamo alle prossimine. Kappa, pure con chi arrivo in Sicilia. Già va bene, già va bene, non c'è preparazione, basta anche mantenere, basta, capito? Come c'è la preparazione buona. Sole, ma veloce, sale e scende. Beh, oggi hai riposato, sia tu. Oggi Gucci in casa, dai. E io devo fare cosa, non andavo a lavorare, invece non mi hanno chiamato, non ci sono andato. Sto aspettando una chiamata e invece è negativo, peggio per loro. Allora mi sono riposato un po', e poi c'è una parcheggiatura accesa, l'altra stamattina presto, stavo un po' spattolando, si stavano fuori roba. Tutto qui, e ho approfittato a fare qualche collegamento. Ma perché non lo devi sapere dal giorno prima? Ma già l'ha fatto la squadra, no? So che qualcuno intanto fa bidone, hai capito? Come al solito. E so che ha fatto bidone oggi, anziché essere un certo numero, è almeno la metà. Peggio per loro. Peggio per lei, che non pone la persona giusta. Avanti. Marina, le persone sono chiamate a lavorare, sono chiamate. Cioè, se non è grande, è a casa definitivamente. Io lo so. Io sono entrato alle abbiamo chiamato alle 4 di mattina, alle 4, fino alle 4 fino alle 11 ho fatto. E solo c'è festa, e come c'è festa lo organizzano le persone, capito? Fanno il servizio e ciccia, siccome io non ce l'ho segnato, poi ho detto se in casa ti chiamo, non mi ha chiamato, e invece stamattina alle 5 mi ha chiamato, alle 5 fa una cosa, alle 5 mi sono andato a casa, così mi chiami alle di Camanzaro, si fa un bidone e mi chiama per comunità, a tappare il buco, no? Adesso mi ha mangiato, peggio per voi. Babbo! Senti, c'è gente che mandrona, che fa anche il bidone, diciamo che travaglio e fa anche il bidone, va. Lasciamo perdere, tu già lo sai, da noi l'ambientaccio, dai. Avanti. Non so, poi ci lamentano, nega. Esatto, poi si lamentano. Grazie a Dio lo stipendio arriva perfetto, anzi, mai dopo, sempre prima, e tanto si lamentano sempre, no? Mari, c'è il pure Macron e contro, c'è gente che vorrebbe il suo stipendio, che non ce l'ha perché è in mezzo ai casini, e per enti che invece vanno lo stipendio loro non vanno a travagliare. Non sai così, io vado, faccio, non sai, io sono in zona, poi vado sul cambio, vado a fare la previsione, a me non mi ha fatto niente a me, o andare a spazzare, andare sul cambio, io problemi non ne ho mai avuto, mai. La vita non la cambia, interessante che mi faccia una giornata e basta, capito? Allora, non è giusto uno fare il tappabucchi, la verità. Per quello mi sono andato. No, ci sono andato, quando arrivano qualche lamentele, comunque si arrangiano loro, capito? A me non mi tocca, peggio per loro. Avanti, Mari, qualcuno ha detto qualcosa? E qualcuno stava chiamando, attenzione che chiama Sassari, buongiorno. E guarda, io qua sono perso, nel senso da tutte le parti, da destra, a sinistra, un casotto intendo. Ma ha chiamato qualcuno poco fa, sono tutti mandroni, io cazzo avrei voluto uno stipendio del genere, cazzo, non mi ero lamentato di niente qua. E già lo sai che se io lo stipendio nostro già non era buttato via, a Giomai pidiamo più di quello comunale, hai capito? Non a Giomai, pidiamo più di quello comunale, che noi abbiamo 13esima, 14esima, i comunali hanno solo la 13esima, come regola. Avanti col buongiorno, Sassari. Attenzione chi vuole entrare, buongiorno. Attenzione chi vuole entrare, avanti. Ma io voglio entrare, qui è stato in macchina, ma non voglio entrare. E capito, non so. Io ho chiesto la compagnia dei mandroni. Kappa, sono mandroni, sì, abbiamo pure due che sono travaglio, non mi ero lamentato di nulla. Lo so. Oh, attore, chi è il comune qua? Da voi giù un deposito, la vostra è? Che cosa? Il deposito da voi, ho visto c'è qualche comune, non parte, ho visto male. Dopo io il mio principale. Ah, ma è comune? Di chi si, c'è motore Yamaha, c'ha. L'ho visto passare ieri, così di passaggio, da lontano, ma forse è d'Antonio, quello che ho pensato. Kappa. Beh Mari, io ti devo lasciare, ti devo. Ed è figlio di mio principale, è un 40 modificato a 60. È bello, eh. Io ti devo lasciare, dai, ci sentiamo, che devo scendere giù a fare una cosa. Che entro un po' passi, vai, la sentiamo, va. Ciao, buona carica. Ciao la signora, la sentiamo, va. Ciao, ciao. Ok, ciao.